Proseguiamo con la seconda puntata della nostra nuova rubrica dedicata ai festival italiani. Se ci avete seguito anche negli anni scorsi, io e Mauro di The Festivals Backpack avevamo una rubrica che si chiamava Festival Passport, nella quale vi raccontavamo appunto i festival italiani o internazionali, ma di quelli un po' diversi rispetto a quelli che potremmo incontrare quest'estate, quelli in cui si stava con la tenda e in cui si viveva proprio il festival per qualche giorno. Quest'anno ovviamente l'abbiamo riadattato e abbiamo dedicato la prima e anche la seconda puntata, cioè quella di oggi, alle rassegne musicali, perché Bologna è una città che sarà ricchissima di eventi quest'estate. Non vi mancherà non andare in vacanza, anche se ci andrete, non vi mancherà assolutamente la possibilità di scegliere la musica. Questo ad esempio anche grazie al Sunshine Super Heroes. Il Sunshine Super Heroes è una rassegna musicale, ma non solamente musicale, perché è ricca anche di eventi teatrali o di eventi poetici, ad esempio con Guido Catalano, e che si terrà da maggio a settembre al Parco del DLF. Ecco, già ieri è iniziata questa rassegna con il primo evento, ma noi in realtà oggi vorremmo presentarvi questo evento attraverso la voce anche di uno degli artisti che si esibiranno questo weekend, venerdì 4. Stiamo parlando di Cimini, che è un cantautore calabrese ma adottato, diciamo, qua a Bologna. Si è trasferito a Bologna tanti anni fa e si è ormai integrato nel tessuto soprattutto musicale e artistico di questa città, e che ad aprile è uscito con il suo album Pubblicità. L'evento di venerdì è proprio un evento dedicato alla presentazione in anteprima nazionale di questo album, che sarà proprio presentato sul palco del DLF e anticipato da un'altra band che si chiama Legno. Per quanto riguarda l'evento e per quanto riguarda anche pubblicità, l'album, insomma, vi lasciamo alle parole di Cimini. Noi vi ricordiamo che però il Sunshine Super Heroes appunto si terrà all'aperto da maggio a settembre al Parco del DLF, che per chi non lo conoscesse è un parco in via Serlio, nel cuore della città, vicino al Locomotive Club, uno dei, diciamo, degli spazi musicali, di musica non solamente underground ma di musica internazionale, di musica nazionale, che negli scorsi anni ha assolutamente portato degli artisti importantissimi in Italia e che si è fatto carico, secondo me molto felicemente, di organizzare tutta l'estate. Potrete trovare tanti altri artisti che si esibiranno appunto al Sunshine Super Heroes all'interno di questa rassegna. Parliamo ad esempio dei Comacose, oppure di Nada, parliamo dei Calibro 35, oppure ancora di Motta, che si suonerà insomma a settembre al Sunshine Super Heroes nell'Arena Puccini. La cosa bella insomma di questo spazio è che oltre ad avere un'area concerti, c'è anche un'area bellissima in cui potete rimanere a chiacchierare all'aperto nel verde, quindi vi invitiamo proprio a scoprire questa rassegna. Se volete maggiori informazioni potete trovarle su Facebook, ogni data è spiegata nel dettaglio. Quello che vi possiamo consigliare è che ovviamente, trattandosi di concerti con un limitato numero di posti a sedere, quello che vi interessa prendetevelo subito assolutamente. A questo punto noi vi invitiamo anche a prendere il biglietto per venerdì, e se per caso eravate ancora in dubbio, vi lasciamo alle parole di Cimini per questa intervista. Da sport, il telefono spento, capisci cosa intendo? I compagni di calcio capiranno. E vuoi sapere che cos'è l'amore? sempre te lo dico io. Tu chiamami col tuo nome, che io ti chiamo col mio. Mi sono innamorato di te, mi sono innamorato di te. Sei andato senza salutare, se chiudo gli occhi assaggio solo sale. Sapesse di te, di te, di te, di te. Sì, ma se proprio lo vuoi sapere che cos'è l'amore, te lo dico io. Tu chiamami col tuo nome, che io ti chiamo col mio. Mi sono innamorato di te, mi sono innamorato di te. Mi sono innamorato di te, mi sono innamorato di te, mi sono innamorato di te. Facciamo le radici qui sulla mia bici, il vento mi dà libertà. Col mondo che ci parla, mio padre non mi guarda, che vaffanculo sono qua. Allora insegnami come si fa. Te ne sei andato, ingoio solo sale. Te ne sei andato senza salutare. Allora, continuiamo con questa nostra rubrica Festival Passport, appunto, perché vogliamo farvi un po' conoscere tutte le varie possibilità che ci sono in questi giorni a Bologna. Quindi chi è di Bologna o chi ci ascolta da fuori Bologna, insomma, si sta organizzando il weekend, noi lo sappiamo. E abbiamo ben pensato di chiamare un artista che suonerà proprio in città, a Bologna, al Sunshine Super Heroes, sabato. Venerdì 4 giugno. Venerdì. Ciao Federico, siamo al telefono con Cimini. Entro subito dovendo sgridare perché venerdì non è sabato. Hai ragione, ma tanto è registrata tagliando. Ah, bello, vabbè. Allora facciamo così, entro e dico: ciao ragazzi, come state? Noi stiamo bene, tu come stai Federico? Io sto bene, anche se devo ammettere che ho fatto la seconda dose di Pfizer, che è il raggiungimento della libertà, ma come tutte le belle cose trascinano con sé delle cose un pochettino meno piacevoli, e quindi oggi ho un po' di febbre, ma è una cosa bellissima, la febbre più bella della mia vita. Esatto, immagino, ma anche perché così sei pronto, combattente, per andare proprio in faccia all'estate, insomma, no? È incredibile come arrivi, quanto sia arrivata subito, davvero in faccia a questo mio inizio di estate, che è il 4 giugno all'Arena Puccini. È fantastico. Tempismo perfetto della sanità emiliana. Ecco, a proposito dell'estate, quali sono le aspettative? Perché ci immaginiamo che tornare davanti a un pubblico sia tipo, non lo so, una cosa stupenda per tutti quanti. Tu come vivi il ritorno che avverrà appunto venerdì 4 giugno al Sunshine Super Heroes? Beh, ora diciamolo che qua adesso prima mi hanno sgridato perché ho sbagliato giorno. Insomma, Cimini, puoi sgridarmi anche tu, dai, va bene. Esatto, avevi detto sabato, ma invece è venerdì 4 giugno, ecco. Adesso ti sgrido apertamente, beh, come me la vivo? Me la vivo in molteplici funzioni, devo essere sincero, con molteplici caratteristiche, tutte quante però molto interiori, perché è un periodo che trascina con sé la coda di un anno, quasi due, terribili. E quindi tutto ciò che rappresenta la mancanza effettiva di suonare in giro, cioè noi facciamo questo lavoro per suonare in giro, e io non vedevo l'ora di ricominciare. Per ricominciare mi hanno fatto prendere la scelta più difficile, ovvero quella lì di ricominciare all'Arena Puccini, che è uno spazio per me del cuore, ma al di là di questo è uno spazio enorme, grandissimo, importante, una delle rassegne più belle di Bologna, e che io, vivendo a Bologna, frequento sempre. E poi, se posso proprio chiudere questo mio trip di sensazioni, è un po' tutto accompagnato da un periodo particolare, perché in questo tour ci sarà un ricordo anche a un maestro che è passato, e non so perché da un po' di tempo a questa parte mi stava aleggiando intorno, e adesso che non c'è più sarò felice anche di salutarlo a mio modo sul palco. Le autostrade sono vuote di notte, faccio tardi, torno a casa da solo, forse perderò il volo. Comunque è stata una serata simpatica, un altro giro ma faccio fatica, l'ultimo tiro mi brucia le dita e la gola. Sarebbe bello se fossi sola, non rispondermi a apparenza, tutto quello che vedi, anzi è una falsa partenza, forse solo una corsia d'emergenza. Non nasconderti che tanto ci vediamo domani, sempre se rimani. Come faccio a restare da solo senza un limite quando la notte ci ingoia? Ah. E se è vero che ne abbiamo abbastanza, e se è vero che sei stata una stronza, ma non me lo vuoi dire. Chiedo a un gin tonic di farmi guarire, non ti ho più vista uscire di casa, neanche quando andavo a fare la spesa e piangevo per strada, mentre nessuno mi guardava. Non rispondermi a apparenza, tutto quello che vedi, anzi è una falsa partenza, una piccolissima corsia d'emergenza. Non nasconderti che tanto adesso è tardi e ci vediamo domani, sempre se rimani. Oppure vattene via, ti dico un'altra bugia, che forse è meglio se stanotte metto i guanti per tornarmene a casa, quando anche l'ultimo notturno è passato e tu vorresti baciarmi sul naso gelato. Ma sono ancora ubriaco con il freno tirato, solo voglia di vederti ancora domani, quando la notte ci ingomma, che si attacca fra i denti se la mastichi forte, prima di buttarla via la sputi nelle mani. Ma sempre se rimani, ma come faccio a restare da solo senza un limite quando la notte ci ingoia? Quindi ci saranno comunque dei contenuti che hai, diciamo, rimodulato, quindi diciamo che la sua presenza sarà un po' più forte nei tuoi spettacoli poi estivi. Hai dovuto rimodulare un pochino i concerti o avevi già un'idea particolare? Ma io avevo già un'idea particolare, perché nel nuovo disco che è uscito il 1° aprile, Pubblicità, c'è una canzone in particolare che si chiama Karaoke, che cita tra i tanti, perché è una canzone fatta di citazioni, cita anche il maestro Battiato. E lo cita più volte, sempre nel ritornello. Allora mi sembrava, intanto era una roba per me già scritta, e ricordare anche questa figura, che per me è davvero uno dei maestri maggiori che mi ha accompagnato, e adesso che è successo quello che è successo, sarò felice di omaggiarlo, insomma, di fargli un saluto, ma non è incentrato ovviamente sul Battiato, e sarà un concerto di presentazione in anteprima nazionale di questo nuovo lavoro che ho fatto in questo periodo così difficile, che sta piacendo. Quindi spero di tirare via un po' di pensieri alle persone, di farli commuovere, di farli riflettere. Pubblicità è stato tra l'altro definito anche un album in qualche modo politico, nel senso di posizione politica, e parole tue che riprendiamo: possiamo essere leggeri, anzi leggerissimi, ma non disinteressati. cosa ci racconti nelle 8 tracce di pubblicità? Ma è un disco, io ho sentito semplicemente la necessità di prendere posizione a partitica ovviamente, una posizione politica a livello davvero di pensiero, che forse è quella cosa che manca oggi, cioè il fatto di voler dire la mia. Siamo stati troppo legati ad una necessità di nulla, una necessità artistica di restare un po' disinteressati, di restare lontani da alcuni temi. Io invece spesso quando scrivo, anzi sempre quando scrivo, scrivo della mia realtà, scrivo del mio presente, della realtà che vedo oltre a quella che vivo. La realtà che vedevo qua mentre stavo scrivendo questo disco, lungi dal Covid, perché non mi interessava sottolineare questo aspetto così noioso, però era una realtà in ogni caso tragica, fatta di instabilità sociale, fatta di sbarchi e fatta di mancanza di diritti, la mancanza dei diritti sull'amore. Ok, allora ho sentito la necessità di parlare di queste tematiche. Questo vuol dire prendere posizione nel momento in cui magari nessuno lo faceva troppo nell'ultimo periodo. Non so se ho avuto una botta di coraggio, però sono contento di averlo fatto. Allora, io ti chiederei, in realtà, mi ero segnata che a questo punto ti chiederei di scegliere una canzone da estrarre, diciamo, da quest'album, che hai voglia di farci sentire dopo aver la spiegazione della storia, appunto, di pubblicità. Beh, allora a questo punto vi farei ascoltare Karaoke, che è questa canzone fatta di canzoni, dove dentro ci sono un sacco di artisti che mi hanno formato e che mi sono divertito a rubare le loro parole, ed è stata una cosa molto, molto bella da fare. Perfetto, allora dopo Karaoke parliamo appunto anche di artisti che ti hanno influenzato. Certo. In discoteca ci manco da un po', al karaoke non dico di no, e se domani è sottolineo se ti ricordi di me. E cucurù cucù paloma, ai ai ai ai, cantava solo canzoni tristi tornando a casa la sera. Che fretta c'era. Piange il telefono, attende un minuto per parlare con l'operatore. La casa è accogliente, ma invidio la gente con un coccodrillo ed un dottore. Fragile questo lo so, ma certe notti non dico di no, che se ho fortuna mi noterai, senza perderci d'animo mai. Ecco. Che fretta c'era. Dopo questo pezzo karaoke torniamo a parlare con Cimini, con cui siamo al telefono, per parlare appunto di influenze musicali. Tra l'altro recentemente hai collaborato anche con Federico Poggi Pollini in una canzone, ci dicevi prima, influenze di Battiato. Rientri un po' nel maxi macro mondo indie, che ormai è passato di moda, no? Qua si parla sempre di indie, però non si capisce mai. Ecco, tu dove ti collocheresti, quali sono le tue influenze musicali, e se dovessi cosa che di solito non si fa, non si chiede, però noi te lo chiediamo lo stesso, in qualche modo etichettare la tua musica, come la descriveresti? Beh guarda, io mi sono ritrovato in questo macro mondo indie, mio malgrado, inconsapevolmente, tutte le robe che mi fanno tirare fuori da questo mondo che, come dice America, non va più di moda. In realtà mi ci sono ritrovato in un momento in cui il mondo indie veniva inteso come il fiorire di nuovi artisti che avevano qualcosa da dire e che sono rimasti anche per questo. Quello che ha fatto passare anche un po' di moda questo mondo qua è che piano piano ci sono usciti troppi, hanno un po' guastato, diciamo, questa scena fiorente, perché hanno iniziato a sporcare fondamentalmente, a non mettere originalità nelle loro composizioni, ma inseguire un'onda. Questo ha fatto sì che diventasse una moda e che quindi sparisse. Io però sono un cantautore, cioè sono nato ascoltando Ligabue, e il fatto di ricordare la collaborazione con Poggi Pollini mi fa letteralmente volare, perché io a 15 anni, a 14 anni ero sotto i palchi di Ligabue scappando di casa. Io mi ricordo quando andai a Campovolo, che avevo 16 anni, una roba del genere, mia mamma ancora non me l'ha perdonata. E da qui in poi abbiamo ricordato Battiato, possiamo pensare a Lucio Dalla, il mondo che mi ha formato, ma non solo artisti italiani, il mondo che mi ha formato è il mondo che non si può ascrivere ad una vetrina troppo musicale, ma ad un contenuto. Sono dei maestri che mi hanno preso e mi hanno portato a scrivere delle canzoni, per cui sono felice di definirmi un cantautore. Poi non so in quale etichetta inteso come genere possa rientrare, se faccio il cantante pop, il cantautorato pop o quant'altro, però sono un cantautore e non mi interessa di dove mi mettono, proprio non mi interessa. Ottimo, allora niente, noi comunque un po' abbiamo scoperto qual è la storia di quest'album, che ricordiamo è uscito comunque in piena pandemia, anche ancora non si poteva uscire. Finalmente invece arriverà sul palco il 4, che ricordiamo è venerdì e non sabato, quindi ti potremo sentire dal vivo appunto sul palco del Sunshine Super Heroes. Allora ammetti che, io lo escluderei, però ammetti che c'è ancora qualcuno che è in dubbio se andare ai concerti, se si può tornare ai live, vuoi mandargli un messaggio? Cioè mandare un messaggio relativo all'importanza di tornare a sentire i concerti? Ma guarda, caro ragazzo che non ti fidi di quello che fa bene, i vaccini fanno bene, la musica fa bene, quindi non vedo perché privarcene. La musica è un vaccino, se vogliamo concludere così, e saranno dei concerti, non solo il mio, ma così come abbiamo visto l'anno scorso, in piena sicurezza, rispetto di orari, di regole, ma è superfluo dirlo, la musica fa bene. Perfetto, allora io ti chiederei se, per salutare le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori, ti va di scegliere un altro brano dopo Karaoke, insomma per farci un po' preparare a questo tuo live. Allora vi faccio ascoltare Scuse, perché bisogna venire e non ci sono scuse. Bravissimo, te lo stavo per fantastico. Dire io. Oh, così l'ho fatta completa. Perfetto, allora ci vediamo venerdì e vabbè, in bocca al lupo per tutta l'estate di live che ci attende. Che arriveranno, grazie. Grazie mille. Mi brucia la testa come l'Amazzonia, Sanremo da quest'anno è tutta un'altra storia, la musica di oggi mi fa solo pena, aspetto solo che mi rubi la scena. Le feste di paese sono solo sagre, ho preso un cellulare ma lo pago a rate, i ristoranti pieni, coi frigo vuoti, e i politici sei tu che li voti. E non ci sono scuse, e non ci sono scuse, è una partita di pallone con le porte chiuse, parto da Itaca in barcone e trovo i porti chiusi. Ho preso l'autostrada del Mediterraneo, ho visto uno straniero baciare il rosario, ho visto un prete lavorare in nero, era un italiano vero. Oggi la mitomania è la prima droga, tutte le altre droghe sono solo moda, le sfilate piene, negozi vuoti, e gli hacker sono tutti invidiosi. E non ci sono scuse, e non ci sono scuse, è un mare nero pieno di meduse, ho visto bene la tua faccia al filtro di un computer. La mia generazione è un genere passato, l'erotico mi piace, sono disperato. È il mondo del lavoro che è cambiato. Un cantante conta più di un laureato. Oggi i miei maestri sono tutti morti. Ascolto solo i gruppi che si sono sciolti. Ho lasciato una ragazza e dopo pianto. E non ci sono scuse, e non ci sono scuse. Metti due dita sulla fronte, siamo tutti loser. Ho fatto uscire una canzone, ho preso solo accuse. Com'è che siete ancora tutti migliori di me? E non ci sono scuse, e non ci sono scuse. È un mare nero pieno di meduse. Non mi ricordo la tua faccia, andata via la luce. Alla tua festa io ci vengo senza scuse. Sì, ma mi brucia la testa come l'Amazzonia. Ho visto sulla mappa e so dove si trova. La musica di oggi mi fa solo pena. L'ho già detto, ma nel frattempo è cambiata la scena. E adesso prendi in mano la tua situazione. Hai pizza per cercare la tua dimensione. Io te lo dico amico, non ho capito tra i problemi dove sta la soluzione. Salviamo gli animali, ti associ. Hanno pestato un gay, ti dissoci. Lasci la merda del tuo cane in giro e ti lamenti che c'è pieno di froci. E non ci sono scuse, e non ci sono scuse. Almeno salvati la vita che le è confuse. Con la tua storia tra le dita e la memoria chiusa. E non ricordi nomi, cose, animali, città. E non ci sono scuse, e non ci sono scuse. Metti le dita sulla fronte, siamo tutti loser. Hai detto grazie a una ragazza, non le chiedi scusa. Com'è che siete ancora tutti migliori di me? E non ci sono scuse, e non ci sono scuse. E non ci sono scuse, e non ci sono scuse. È un litorale pieno di meduse. Porto sicuro con le porte chiuse. E se vuoi sali a casa mia. Ma non capisci l'ironia. Ti ho vista bene in un computer. Metti due dita che sono loser. E sono tutti